Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera siamo in collegamento con uno dei direttori più celebri del nostro tempo, il maestro Riccardo Chailly. Non ha quasi bisogno di presentazione, direttore della Gewandhaus di Lipsia, è stato direttore del Concertgebouw di Amsterdam, è stato direttore dell'Orchestra della Radio di Berlino, è stato direttore del Teatro Comunale di Bologna, della Verdi di Milano, ha, diciamo così, frequentato i podi più prestigiosi del mondo, sta appunto quest'anno per prendere possesso della direzione musicale della Scala e infatti il 1 maggio dirigerà questa Turandot col finale di Berio di cui tanto si sta parlando. Ma innanzitutto cominciamo a salutarlo. Buonasera maestro Chailly. Buonasera a lei. E grazie per essere con noi questa sera. Senta, io direi cominciamo con una sorpresa e soprattutto con una cattivazione, si sa, ogni tanto capitano. Lei una Turandot l'ha fatta nel novembre, era il 4 novembre 1977, era leggermente più giovane, mi dovrà scusare questa osservazione, ed era a San Francisco con l'orchestra del San Francisco Opera, e però aveva un parterre di cantanti, di interpreti incredibile, Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti, Giorgio Tozzi, eccetera, e c'era lei, giovanissimo, sul podio. Maestro, è un po' emozionato? Era il primo impatto con un universo sonoro di questo tipo, ero un ragazzino ancora. Beh, ragazzino no, però diciamo è passato insomma, qualche anno. Insomma, che emozione ricordare quel momento. Poi era l'unica volta che Montserrat ha cantato in palcoscenico il ruolo di Turandot, quindi in questo senso è un unicum questo che abbiamo appena ascoltato. Poi ricordo tante prove con lei, con Luciano Pavarotti, che allora peraltro debuttava in palcoscenico il ruolo anche lui, quindi un momento abbastanza folgorante della mia gioventù. Certo, lei aveva 24 anni, lo possiamo dire? Purtroppo sì. Beh, riveliamo un po' la sua età, però è ancora giovanilissimo, ecco maestro, poi veramente insomma dobbiamo farle i complimenti per come si mantiene, ma lì bisogna dire che era veramente insomma alle prime grandi esperienze. E Chailly, ricordo a tutti che sarà sul podio della Scala il 1 maggio per questa Turandot con il finale di Berio e che sarà un po' anche il, diciamo così, il tocco d'apertura dell'Expo. Maestro, tra queste due Turandot, tra questa di San Francisco e questa, al di là degli anni, che cosa ci dice? Ma lì era uno spettacolo con una folgorante regia di Jean-Pierre Ponnel. Oggi abbiamo uno spettacolo che può essere considerato in un certo senso storico perché è l'unico che Luciano Berio ha seguito ed approvato con la regia di Nikolaus Lenhoff, che per questa esecuzione milanese ha ripensato lo spettacolo, l'ha anche perfezionato anche dal punto di vista tecnico. E quindi mi aspetto insomma un impatto importante per quello che è anche la novità di un finale che alla Scala si esegue per la prima volta in forma scenica, cioè quello, come lei ha detto prima, realizzato da Luciano Berio. È un po' un mistero quello del finale, perché nell'esecuzione di San Francisco io ho eseguito il finale di Alfano nella versione più breve dei due finali che lui ha scritto e ha funzionato benissimo, sicuramente ha un significato molto diverso musicalmente e teatralmente parlando rispetto alle intenzioni d'autore, perché ricordo che l'autore voleva un finale evanescente che andasse morendo e che potesse spegnersi pur nel senso positivo e gioioso del significato della chiusura della fiaba di Turandot, però è una fiaba che chiude positivamente con la presenza di un corpo morto di Liu, che è il prezzo per l'amore di Calaf con Turandot. Quindi è molto più coerente, secondo me, anche conoscendo quelle che erano le intenzioni lasciate e sia scritte che verbali, tramandate proprio nella tradizione orale di quello che Puccini disse ad amici e anche in questo caso ad ascoltatori, perché c'è stata quella curiosa cosa di Salvatore Orlando, che era un amico di famiglia Puccini, che un'estate nel 22 ascoltò Puccini a Viareggio suonargli e cantargli il finale di Turandot. Sì. E lui raccontava a Leonardo Pinzauti tanti anni fa, che poi è stato colui che ha scritto una lettera a Berio ricordando tutta questa parte di importante aneddoto parlato, che proprio lui diceva che dispiacere non aver potuto registrare quel momento, non esistevano ancora i registratori portatili. Cosa sarebbe oggi un documento del genere ascoltando Puccini cantare e suonare il finale di Turandot, così poetico, così dolce, così evanescente, e come diceva Puccini, vedi, è come Tristano, poi Tristano, infatti lui scrive sempre negli schizzi, cioè il finale di Tristan und Isolde di Wagner, che ha questo finale evanescente, straordinario, era un po' l'ideale musicale teatrale che aveva Puccini in mente, almeno per questo grande finale. Beh, ma in qualche modo c'è una tradizione, una testimonianza che Berio ha raccolto, no? Sì, è importante questa, perché fu proprio Leonardo Pinzauti a trasmettere questo aneddoto, ed è un aneddoto che crea oggi, che Luciano non c'è più, un punto imprescindibile, no? Certo. E quindi fa di questo finale, che ripeto ha occupato molto tempo degli ultimi anni di vita di Berio, per colmare questo vuoto, che è un vuoto di 307 battute per l'esattezza, di cui prese dagli schizzi di Puccini sono 133 le battute di Puccini che ha inserito Berio, invece quelle proprio ex novo composte da Luciano sono 174, quindi fa capire un po' la divisione quasi perfetta tra Puccini e Berio, insomma una distribuzione anche di quantità di battute molto logico. Senta maestro, lei ebbe la Montserrat Caballé ed ebbe Pavarotti, due debutti abbiamo ricordato, ma so che Pavarotti a un certo punto per il Nessun Dorma la interruppe a San Francisco, oppure chiese un momento di pausa, cosa successe? Cioè praticamente lì quello che accade in questa registrazione, se poi l'ascoltiamo, c'è proprio l'idea della sospensione di quello che è invece il discorso di continuità pucciniano, cioè c'è un fa maggiore aggiunto per tradizione alla fine del Vincerò che non corrisponde alla partitura originale, è una vecchia tradizione, e Pavarotti allora mi chiese di fermare l'opera su quell'accordo, cosa che feci. Essendo poi così giovane avevo anche molta soggezione allora di lui e si sente il boato poi di come il pubblico di San Francisco ha percepito e reagito a questo strepitoso Nessun Dorma di Luciano. Sentito una grande emozione, perché tanti ricordi, tante emozioni di allora sono tutte concentrate per un attimo sulla mia memoria e anche sulla mia pelle. Era lei sul podio, c'era lei, c'era Pavarotti. Ricordavo un'altra tradizione prima di fermare questa romanza con un fa maggiore che avviene quattro battute dopo, non ricordavo invece che Luciano mi chiese di fermare su Vincerò, che è un re maggiore. E quindi e invece a Milano eseguiremo come scritto da Puccini in soluzione di continuità, no? Va bene, ma questo però è un fatto che fa parte della sua storia, fa parte di Riccardo Scheib, fa parte anche della storia delle interpretazioni, maestro. Certo, sicuramente. Poi questa in particolare che segna un po' l'unico di Montserrat con Luciano insieme, no? Sì, beh, è un fatto unico questa di San Francisco e il merito è tutto suo, insomma, anche per questa riuscita. Lei ha sentito ancora quel pubblico che urlava, c'erano dei colpi di tosse nella registrazione, forse qualcuno con la radio avrà ascoltato, avrà sentito, ma effettivamente l'emozione del pubblico fu infinita, maestro. Sì, lo ricordo ancora molto bene. Beh, lei aveva 24 anni, però diciamo così che grazie a Puccini diffuse un'emozione unica. È stato per me il secondo incontro, perché nel 74, allora cos'è, 21enne, avevo debuttato all'Opera di Chicago con Madama Butterfly, quindi Puccini è stato da allora, da subito direi, dall'inizio della mia attività di direttore d'orchestra legato al nostro grande repertorio italiano, legato al nome di Giacomo Puccini, quindi dall'impatto che ebbe quella Butterfly, che per me fu molto molto importante. Arrivò questo invito da San Francisco, poi dopo sono tornato negli anni anche all'Opera di Chicago nuovamente come Madama Butterfly. Ecco maestro, questo era un documento, gliel'abbiamo così proposto proprio perché lei a sua volta potesse emozionarsi, perché qui nel riascoltarlo, nel prepararlo, ci siamo un po' emozionati tutti. E la radio è fatta anche di queste emozioni che in fondo fanno parte della nostra vita e fanno parte della musica, per fortuna. Questa sera abbiamo al telefono come ospite il maestro Riccardo Chailly, una delle grandi bacchette del nostro tempo, che tra l'altro quest'anno prenderà, diciamo così, possesso della Scala il 1 maggio con il concerto di Turandot, con il finale di Berio. Sarà un po', diciamo così, il suo battesimo ufficiale, grande, una grande occasione, un grande appuntamento, l'apertura dell'Expo con la musica, con la Scala e con il direttore, appunto, che arriva, che sta arrivando, che è arrivato. Maestro Chailly, il ritorno alla Scala, io lo chiamo così perché in fondo lei c'è stato, c'è ristato, ha fatto, ha detto, eccetera, però questa volta, insomma, la Scala diventa un po' sua, e anche questo è un fatto estremamente positivo, è un, diciamo così, un bel momento della sua carriera. Sì, poi è stato così, la conseguenza di un'evoluzione naturale di tanti anni di frequentazione fin da ragazzo, poi negli ultimi anni anche molto intensificato con l'attività con l'Orchestra Filarmonica della Scala. Quindi ho piacere di avere questa responsabilità, e sicuramente il significato del 1 maggio è legato a quello che rappresenta questo capolavoro di Puccini per quello che è così il passato storico del Teatro alla Scala con Turandot. Sappiamo che è la prima volta in assoluto è suonata in quelle pareti questa grandissima musica, e da allora, insomma, è diventato patrimonio della grande tradizione italiana, diciamo del primo Novecento. Certo, lì allora mi pare la prima esecuzione, se ben ricordo, c'era Toscanini che fece una scenata incredibile, perché interruppe laddove il maestro appunto non aveva più continuato quel famoso finale, e si volse verso il pubblico dicendo: a questo punto il maestro è morto. Cosa che fece emozionare tutti. Oggi, ricordandola, chiaramente ci vediamo anche un pizzico di retorica, ma forse ci vuole in certi momenti. Io credo che in questo caso invece si debba pensare in avanti, non indietro. Certo, quindi certo. Benissimo Puccini e il suo genio, ma andiamo avanti. Luciano Berio non è più con noi dal 2003 e rappresenta un'altra fase della storia musicale dell'Italia, ed è uno dei grandi italiani che ormai ci ha lasciato. Quindi io sento in questa Turandot del 1 maggio un grande senso di responsabilità per tutti e due gli autori, per Puccini sicuramente, ma altrettanto per Luciano Berio, perché fece un lavoro di scavo su tutti gli schizzi che Puccini ha lasciato, e poi quando venne alle prove ad Amsterdam nel 2002, durante la fase di concertazione, cambiò con me proprio sulla partitura circa 102-103 passi, assestando l'orchestrazione, cambiando le dinamiche, rivedendo drasticamente i metronomi, un lavoro talmente capillare che poi ha costretto, che per un senso anche di responsabilità, ho chiesto a Casa Ricordi di stamparne una nuova versione, ricordando che erano correzioni tutte riportate a mano da Luciano sulla mia partitura, quindi non volevo che questo tesoro fosse solo una mia proprietà privata, ma desidero che nel tempo, spero in futuro, negli anni prossimi, sia patrimonio di tutti i direttori d'orchestra. Chiaro che sappiamo adesso che cosa aveva in mente Puccini, quindi è talmente atipico da quello che oggi ormai è la rilettura anche proprio del senso teatrale di quest'opera. Secondo me Luciano, in quell'interludio che ha scritto di 2 minuti e mezzo, in cui l'abbraccio di Turandot porta al cosiddetto scongelamento della donna, no? Nel senso che questa donna così astratta, così rigida, così disumana, assume caratteri umani e anche con momenti di prevedibile dolcezza. Devo dire che nelle ultime note cantate a Montserrat Caballé, con la sua vocalità strepitosa ma anche molto lirica, dava già l'idea di una voce più umana che si stacca dalla durezza, dalla forza, dalla veemenza, dal suono col canto che taglia le note, come faceva la divina Birgit Nilsson, per esempio. Ma è già un approccio più elegante dal punto di vista dell'espressione e della morbidezza. Sono due modi diversi di intendere Turandot. Già Maria Callas si era un po' allineata in questo senso, cambiando un po' la vocalità della tradizione di quegli anni. Certo, maestro, e sono tutte considerazioni preziose, tra l'altro, che mettiamo in margine alla esecuzione prossima, da molti, anzi da tutti attesa, della Turandot alla Scala. Lei particolarmente si sente emozionato, si sente come in un grande appuntamento? Cosa ci può dire del suo cuore in questo momento mentre fervono i preparativi? Ho una smania pucciniana fin da ragazzo, nel senso che ogni volta è un po' quello che mi porta avanti con autori coevi come Gustav Mahler, per esempio, no? È un desiderio di avvicinamento che non si placa negli anni, quindi anche perché Turandot è l'opera in assoluto che tocca i vertici del linguaggio novecentesco di Puccini. È impressionante le volontarie quasi citazioni legate attraverso anche il discorso politonale, per esempio, della sovrapposizione di tonalità, quanto lui faceva già percepire di aver ascoltato con attenzione Schoenberg, prima Richard Strauss, chiaramente Debussy e tutti coloro che erano proprio intorno a quel periodo, no? Non solo i grandi compositori italiani, quindi aveva una cultura europea molto molto importante che con Turandot è molto tangibile, molto percepibile. Idee di orchestrazione straordinaria che va al di là del prevedibile. Già in Fanciulla del West aveva dato dei segnali allarmanti nel senso buono, ancor di più nel Trittico, in particolare in Gianni Schicchi, ma sicuramente in Turandot è il vertice assoluto. Diciamo della modernità del linguaggio di Puccini, si parla sempre e troppo solo della sua grandezza melodica. Ricordo che Luciano durante le prove di Turandot mi disse: noi italiani non abbiamo ancora capito abbastanza che il primo atto di Turandot è la più grande musica della tradizione italiana della prima metà del Novecento. Ora, Luciano, come sappiamo, non era incline alla lode, no? Sì, certo. E quindi il fatto stesso che lui mi disse queste parole prova ancora una volta la unicità di questo linguaggio raggiunto da Puccini. Ma ora, maestro, abbiamo ritrovato il disco del 2003 nel quale lei dava la prima proprio incisione, registrazione mondiale del finale di Berio con l'orchestra sinfonica e il coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e con Romano Gandolfi, maestro del coro. Lei si ricorderà anche questo particolare, fu la prima registrazione che lei fece del finale di Berio. Come no, Romano Gandolfi è stato un partner prezioso in tutti quegli anni, come lo è stato prima quando da ragazzo ho diretto con lui tante produzioni operistiche alla Scala. È chiaro che la tinta corale delle ultime battute, dove il coro canta «Liu bontà, perdona, perdona», il colore proprio tipico del coro in pianissimo, come fosse una marcia funebre che accompagna un rituale alla fine delle ultime armonie scritte da Puccini, sono un incontro tra la grandezza del timbro orchestrale scritto da Puccini e la bellezza del colore del coro. Quindi è un momento assolutamente commovente in cui c'è questo ottavino che svetta su tutti, su un mi bemolle minore, e c'è questo mi bemolle acuto, dopodiché passa alla musica di Berio con un curioso cambio di tonalità con la celesta e i primi violini che vanno a moto retrogrado uno con l'altro, per cui da quel momento siamo nel terreno della musica di Berio. Però lei ci può aggiungere qualcosa forse? Sì, è bello perché ci siamo fermati a metà dell'intermezzo che Luciano ha creato, proprio nel momento dell'abbraccio. Certo. C'è questo abbraccio così romantico che accavalla temi dell'opera con rimembranze delle prime note del preludio di Tristano di Wagner, e sfocia poi in quel crescendo enorme con la gran cassa che esplode, quello è il momento del bacio, no? Dopo questo lungo abbraccio. E è proprio la musica del disgelo, quella che abbiamo appena ascoltato. Quando Calaf canta le ultime parole, il bacio tuo mi dà l'eternità, con la parola eternità parte questo grande intermezzo di 2 minuti e mezzo, e quindi abbiamo sentito un po' questa immersione dei sentimenti, no? In questa dal musica. Coro, dal coro ci siamo lentamente avvicinati, appunto. Certo. No? Ecco, maestro, senta, sa che il tempo con lei è volato con Turandot, è volato a San Francisco, è volato alla Scala di Milano, è volato con l'Expo, ma cosa succede? Perché il tempo è così fuggevole? No, il merito è tutto di chi ci accompagna, cioè la musica, in questo caso la straordinaria musica di Turandot di Puccini. Direi che è stata una serata che ci ricorderemo, maestro, perché avere lei è sempre un piacere, ma avere lei con questi documenti diventa anche un'emozione. Poi Puccini è il musicista che comunica forse più emozioni di altri, e quindi direi che questa sera andiamo via con un pieno proprio di emozioni. È molto amato questo autore, continua a sorprendere per grandezza e modernità. Io credo che sia sempre più importante dare a Puccini il peso storico che rappresenta per l'Italia. È un gigante del primo Novecento e impone questo tipo di confronto per noi musicisti sempre difficile, perché ricordo da direttore d'orchestra che Puccini tecnicamente, cioè proprio per quello che è l'impegno musicale attraverso il quale si deve trasmettere la chiarezza del pensiero attraverso la gestualità del dirigere, è uno degli autori ancora più complessi per noi direttori d'orchestra. Maestro, buon lavoro alla Scala, grazie per essere stato con noi. Altrettanto a lei. A risentirci, cari ascoltatori, domenica prossima, come sempre alle 21, un cordiale saluto da Armando Torno e da Riccardo Sciagli.